come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Grande referendum alla Zanzara questa sera, caro Parenzo, grande referendum. Che vuoi? Vuoi iniziare il tuo solito predicozzo sugli operai, eccetera, eccetera, di cui non me ne frega nulla? Vuoi cominciare subito? No, volevo soltanto segnalare ai nostri radioascoltatori la meravigliosa intervista di Alessandro Sallusti dalle pagine giornale a Berlusconi. Ma guarda che l'hanno letta tutti questa intervista. Ti svegli adesso alle 18.34 di lunedì? Che non si sente nulla per telefono, peraltro. Dove sei? In uno scantinato? Dove sei? Sono nel bunker di Saddam. Sono ma a casa dove? Mia. Non si sente nulla, come al solito. Comunque, volevi segnalare l'intervista del giornale Berlusconi. È stata già scarnificata, ne abbiamo parlato, ne parlano tutti. Poi tu vuoi recitare le parti forse più ridicole, forse l'introduzione. Vabbè, avrai modo di farlo. Però grande, grande referendum della Zanzara è questo. Lo dico proprio papale. Qual è la stronzata più grande che ha detto Berlusconi in questa intervista? Partiamo subito. Scegliete voi, ce ne sono alcune che riguardano anche la sua vita privata, eccetera, eccetera, però quelli sono ricordi, insomma, Berlusconi è anche un maestro in queste cose, no? Iniziamo subito con la stronzata numero uno, che non è detto sia la più grande, eh? Con Renzi il Partito Democratico diventerebbe un partito socialdemocratico. Ma perché socialdemocratico? Casomai è il contrario. Sentiamo. E questo ci fa piacere, perché se accadesse un miracolo, che cioè Renzi vincesse le primarie e fosse lui il leader del Partito Democratico, si verificherebbe in Italia questo miracolo, che finalmente il Partito Comunista Italiano, che ha tante volte cambiato nomi ma non ha mai cambiato modo e concezione, diventerebbe un partito socialdemocratico. Quindi, ho capito, cioè siccome lui pensa che il PD è ancora il partito comunista, se vince Renzi diventa finalmente il partito socialdemocratico. Vabbè, abbiamo capito tutti, va. Questa è grossa pure, questa è grossa, si potrebbe votare anche per questa. Abrogheremo l'IMU come fatto con l'ICI, ma se c'è l'IMU, caro Berlusconi, è perché forse tu hai tolto l'ICI. Uno dei programmi di governo nostro, come abbiamo abrogato l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, così abrogheremo subito l'IMU, perché la casa è il pilastro. Questo è invece il massimo dell'ipocrisia. Su Alfano, dopo aver parlato del quid, dopo averlo praticamente cacciato a pedate nel sedere, diciamola tutta, insomma, dopo averlo trattato come un... come cosa? Come un... come un passo, una pezza da piedi praticamente. Esatto, bravo, una pezza da piedi, va bene. Alfano è il più bravo, gli voglio bene come un figlio, che è come dirgli, vabbè, insomma, stai buono lì come un figlio, sei un po' così, ancora devi crescere, via. Che Alfano è una persona speciale. Di tutti i politici in campo è sicuramente il migliore, senza paragoni, il migliore. È una persona di grande e profonda intelligenza, di grandissima lealtà, di grandissimo amore per l'Italia. Io gli voglio bene come ad un figlio. Vabbè, poi a un certo punto ha detto: parlo oggi perché ho di fronte persone che la pensano come me, praticamente dicendo che non è andato dai giovani del PDL perché non la pensano come lui. E poi ho fatto più di 100 foto e non so quante dediche. Ma te credo, non è venuti lì apposta in 500 sulla nave, cioè, per chiederti l'autografo? E non è che sia un test di popolarità. Siamo tra amici, siamo in famiglia, per cui tutti noi sappiamo assolutamente, non dubitiamo l'affetto che lei nutre per Angiolino Alfano. Avete la dimostrato, stima. Tra l'altro, l'affetto per me l'avete dimostrato ampiamente ieri sera. Credo di aver fatto più di 100 fotografie e non so quante dediche. Se tu ritorni. Vabbè, vabbè, noi comunque siamo sempre contenti, eh. Siamo sempre contenti. Ma come va bene, per, ma... perché ci divertiamo come matti, eh. Siamo sempre molto, molto contenti. Ma molto contenti. Un'altra eccezionale è questa. Quando ma hai capito come lo incalzava? Sì. Mettiti in un posto dove si prende, perché non si prende. Quando cantavo a Parigi con lo pseudonimo di Dani Daniel, o Dani Daniel, non lo so adesso la pronuncia, credo che sia Dani Daniel, Le Figaro scrisse che davo particolare espressione alle parole delle canzoni. Le Figaro, Le Figaro, Dani Daniel, eccezionale. Vabbè, chiudiamo con Berlusconi, poi Renzi gli ha risposto, ma sentiremo più avanti. Un Di Pietro Doc, un Di Pietro Doc ha in onda. Sto con i più deboli, sentite perché. La ragion d'essere dell'Italia Valori, che è quella di stare dalla parte dei soggetti più deboli, non perché sono comunista, ma perché lo diceva Gesù Cristo, che se permette, con tutti i rispetti per Max e tutta la compagnia bella, è venuto prima di loro. Andate a leggere il Vangelo, che è un po' meglio. Come può uno scoglio arginare il mare? Altro protagonista del giorno, Renata Polverini. Io voglio dire solo una cosa su questi scandali della Regione Lazio. A parte che se ne accorgono sempre dopo i politici, dopo l'intervento della magistratura. Dunque adesso tutti invocano rigore, la stessa Polverini, e li dobbiamo credere. Vuole tagliare le spese, togliere i finanziamenti ai gruppi. Questo scandalo dei finanziamenti ai gruppi, su cui non c'è nessun rendiconto. Io taglierei tutto il finanziamento pubblico, ma già lo sapete. Ma se ne accorgono sempre dopo, successivamente. E poi per cacciare qualcuno a calci nel sedere da un partito, che cosa ci vuole di più se uno ti dice che ha trasferito i soldi all'estero, ha speso 30.000 euro per una vacanza perché era stressato dopo la campagna elettorale? Che cosa bisogna fare per cacciare uno da un partito? Anche se li ha restituiti quei soldi, e vedremo, anche se li avesse restituiti, dovrebbe essere cacciato a pedate nel sedere. Tu lo sai. Non si vuole. Perché ho messo questa canzone? Perché Renata Polverini cantò. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a... Oggi è un'altra musica per Renata Polverini. Bisogna dire un paio di cose però, caro Parenzo. Non so se tu hai seguito l'intervento del governatore del Lazio. No? E se l'hai seguito, io trovo sbagliatissimo, pessimo... il fatto di fare riferimento al cancro, alla propria operazione, per quello che riguarda, con un paragone, bisogna estirpare il cancro dalla regione come hanno estirpato il cancro a me dal mio corpo, diciamo. E poi il riferimento alla Concordia, perché bisogna fare riferimento alla... Stiamo parlando di rubagalline, di soldi rubati, non della Concordia, del cancro. Partiamo col cancro. E allora i tumori che stanno qua dentro, come nella mia gola, vanno estirpati oggi. Resti, e lo dico con tutto rispetto, per le malattie eccetera, ma cosa c'entrano i tumori alla gola con i tumori della Regione Lazio? Vabbè, e l'altra poi... no, non c'entra niente, guarda, non c'entra niente. E poi ma l'altra scusami, cosa, ma ne parleremo perché abbiamo un ospite. Va bene, perché... l'altra cosa è il Concordia, anche qui, ma non è che c'entrano i morti della Concordia, no. Anche la metafora, ho capito, ma non... qui si tratta di persone che si sono inguattati i soldi per andare a fare le spese non so dove, le vacanze, le BMW e altre cose, non c'entra niente la Concordia, gli scogli. Oggi o siamo convinti che se superiamo questo scoglio difficile, siamo come la Concordia, ci siamo sfracellati, per fortuna ancora non abbiamo morti, o siamo nelle condizioni di dire che invertiamo la marcia, oppure non vale la pena di andare avanti. E va bene, io voglio capire che davanti a questi spettacoli ha voglia di tornare in politica o comunque di cimentarsi di nuovo, un protagonista del mondo dello spettacolo, il principe per eccellenza, che, caro Parenzo, non è il principe di Filettino. Non è il principe di Filettino. Quello forse lo sentiremo più avanti, perché è il difensore del Batman. La cosa curiosa è che il principe di Filettino è l'avvocato del Batman, Principe di Filettino e Batman insieme. Il principe di Filettino difende Batman. Avete già capito di chi parlo, dell'avvocato Tormina e del signor Fiorito. Qui abbiamo il principe per eccellenza, che sta facendo un reality su Rai 2, Pechino Express. Hanno detto che ha sostituito Santoro, ma è chiaramente una cosa che non esiste. Emanuele Filiberto, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Dove si trova, principe? Sono imbarazzato. Cosa ha detto subito? No, Parenzo vuole subito. No, sono imbarazzato perché non ho mai intervistato un reale. Mi non, è il, non è il principe di Filettino, ma il principe Filibertino. Senta, ma perché qualcuno si attribuisce ogni tanto la carica di principe? In questo caso il principe di Filettino. Ma perché fa bene, fa bello, fa reale, fa sognare, non lo so. Saranno anche problemi loro, hanno bisogno. Lo sai, so come... Come quelli che ce l'hanno piccola devono sempre parlare di sesso, ecco. Questa è una buona metafora. Questa è una bella metafora, eccetera. Sarà contento. Ma poco reale, poco regale, ma a proposito. Regale, ma giusta. A proposito di sesso, ma. Quanto le piace la topa, principe? No, ma quanto le piace la topa è una brutta cosa. Scusa, perché devi chiedere queste cose? Quanto le piacciono le donne, vuole chiedere Parenzo? Perché. Vabbè, se vuole risponda, principe, le piacciono molto le donne? Abbastanza. Sono felicemente sposato e mi piace mia moglie. Beh, sì. Ogni tanto non ha anche da sposata. Da quanti anni è sposato lei, principe? Scusi? Ormai quasi 10 anni. 10 anni, ma no, possibile che in 10 anni non abbia mai avuto qualche tentazione? Adesso, questo non ci posso credere, caro principe. No. Saranno anche fatti miei. Questo è anche vero, questo è anche vero. Sento una cosa, ma. Ma come lo fanno i principi? Non ho mai ma capito. Aspetta, ma perché devi fare sempre queste domande? Lui, dopo aver scoperto questa cosa di Sgarbi, Parenzo, dopo aver scoperto questa vicenda della sexy gate di Sgarbi, è fissato adesso con chi fa l'amore, quanto fa l'amore, quanto si fa. Ho una vita per questo molto noiosa. Per esempio, oggi è stata dedicata soltanto alle mie bambine, le ho portate a scuola, le ho portate al parco. Adesso stanno qua e le ho proibite di entrare nel mio ufficio per poter parlare con voi, però non vedono l'ora di giocare a qualcosa con me. Dunque, vita noiosa da questo punto di vista. Tranquilla, come tranquilla giornata, noiosa. E come vita anche. Senta, ma lei sulla questione delle foto della principessa Kate pubblicate da Mondadori, fanno bene arrabbiarsi gli inglesi oppure, insomma, cosa possono dire a noi dopo che i loro tabloid per anni hanno continuato a pubblicare qualsiasi cosa? Sempre il problema di chi prende poi dà eccetera eccetera. I tabloid inglesi, soprattutto quelli gestiti da Murdoch, sono sempre andati all'estremo di questa cosa. Io penso comunque che una vita, diciamo, privata dovrebbe essere riservata e questo è a giudizio, diciamo, dei direttori dei settimanali. Cioè, lei si scandalizza per questa pubblicazione o no? Ho visto in Francia le foto che sono uscite, non è che c'è granché per fare tutto questo polverone. C'è un paio di tette, diciamo la verità, non è niente eccezionale, diciamola tutta in maniera cruda. Ma anche belle, direi. Ah, lei le trova belle? Ma non sono male, no? Beh, sì, insomma, c'è di meglio. Sono discrete ma sincere. Discrete ma sincere è una buona definizione. Senta una cosa, ma... lei ha mai avuto delle foto che ha dovuto ritirare, delle foto compromettenti? So che è una domanda che uno dice, no, si faccia gli affari suoi, eccetera, eccetera. Purtroppo, però... No, purtroppo mai. Le foto mie sono sempre state pubblicate, non ho mai avuto il tempo di ritirarle, ma poi non erano un granché. Però qua, diciamo, in Francia la giustizia protegge molto la vita privata. Sì, è vero, è vero. Questo dall'epoca di Pompidou. C'è quella famosa legge Pompidou che sancisce molto, diciamo, questi tipi di foto, quello che in Italia non c'è, è un peccato forse. Però scusi, principe, la signora Kate, la principessa Kate, non se l'è un po' cercata? Quando uno sta in un posto, in una terrazza, in vacanza in Provenza e si scopre, insomma, scopre il seno, insomma, un po' se la cerca, diciamo la verità. Addirittura potrebbe anche darsi che l'abbia fatta apposta. Che dice lei? Ma farlo apposta non penso, ma poi lo sai, tu non è che ci pensi sempre che forse qualcuno con un teleobiettivo di fronte, tu affitti una casa... Perché lei non ci pensa? Lei non ci pensa quando... ci penso perfino io. Io veramente poco, perché veramente non sono molto interessante da fotografare. Beh, insomma, però, dipende. No, dipende. Io non ci penso. Va bene, traffico, torniamo subito. Pechino Express su Rai 2. Lei ha detto una frase di recente che mi ha molto colpito. Ho scoperto altre culture e povertà. Però, principe, adesso si può dire tutto. Non è che uno con un reality Pechino Express circondato da belle donne ha scoperto culture e povertà. Uno la cultura e la povertà la scopre in un altro modo. Detto con tutto il rispetto... Volete prima parlare di traffico o di questo? Traffico, torniamo subito. Hai visto l'imitazione della Minetti, Parenzo? Molto carina, dalla signora Cabello. Dalla signora Cabello? Io prima o poi ti strozzerò per questo, con questa comunicazione con te. Prima o poi verrò lì e ti strozzo con le mie mani. Con le mie adesso. Mani ti strozzo, ti giuro, ti strozzo con le mie mani. E dotami di una. Questo è un reality, come quello che sta conducendo il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Pechino Express. Ed è il reality Cruciani Parenzo, potrebbe essere anche un successo. Io vengo là e ti strozzo in diretta. Non capisco perché fa amici di uno strumento. Perché non si sente nulla, non si sente niente, una cosa pazzesca. Allora, perché? E chissà come mai il principe sente. Tu lo senti mai in casa e il principe sente, chissà come mai. Perché lui è collegato bene, che c'entra? C'ha il telefono che funziona, non il tuo che stai in una zona che non prende. No, comunque, chissà come mai il principe sente le riflessioni patatissime. Non si sente nulla, non si sente nulla. Perché si parla di povertà? Lei ha preso, ha scoperto cultura e povertà con reality. Principe. Non ho scoperto cultura e povertà con i reality perché ho viaggiato molto e li ho visto. Una cosa è essere lì in mezzo a quelle persone per più di 50 giorni, ci si rende conto della fortuna soprattutto che abbiamo qua in Italia e in Europa e nel resto del mondo, ma frequentandoli regolarmente ci si rende anche conto in quei posti dove siamo andati della dignità di queste persone. Vabbè, però non è che attraverso un'esperienza di questo tipo, magari ci sono altri modi. Comunque lasciamo perdere, io voglio capire una cosa, ma lei tornerebbe in politica? Mi dica la verità, però, dopo aver magari, e con chi? Quando si è rotto le scatole di stare in televisione, magari ha voglia di tornare in politica. Casini ha detto per esempio che candidarla nel 2009 all'Europa è stato un errore. È stato un errore per lui, sì, perché si è reso conto che molti del suo partito avevano meno voti di me. Io sono stato il primo dei non eletti, il primo è stato Magdi Alam, che non aveva niente a che fare col suo partito, e del resto infatti è uscito subito. Secondo sono stato io, Volonté e tutti gli altri sono arrivati molto dietro. Questo dunque è bello. L'errore, sì, di rendersi conto che per le persone, vede, il problema, ecco, ma perché ha detto questa cosa Casini? Perché poi si è pentito di che cosa? Non ho capito, perché voleva in qualche modo sfruttarla per prendere i voti e dopo è diventato un po' più snob? Ma non lo so, questo lo sa, non lo so. Ma ormai non ha più rapporti con lui. Sinceramente non mi interessa quello che pensa il signor Casini. Come lo definirebbe? Cioè, un politico. Ma lei l'ha mai votato Casini? Essendo stato suo candidato, l'ha mai votato Casini nelle due volte che ha votato le politiche in Italia, nel 2006 e 2008? No, io ho votato, allora, nell'europeo ho votato per se stesso, e vabbè, questo dire, è chiaro. Molto regalmente lo posso dire. Vabbè, ma questo è. E prima? e prima, devo dire la verità, non ho votato. Cioè, pur avendo avuto la possibilità di votare 2006-2008 non ha votato? No, non ho votato. Ma scusi, l'Italia le ha permesso di tornare a votare e lei non ha mai votato? Ma non ci sono, lo sa, io trovo un peccato che non esista che non sia contabilizzato come un voto il voto bianco, vuol dire, se nessuno ti dà veramente fiducia, perché devi votare? Anzi, vota bianco e ci si rende conto che lì forse bisognerebbe cambiare qualcosa. Ma oggi chi voterebbe, principe, lei? Oggi sinceramente non saprei per chi votare, Renzi. Non ho la più pallida idea. Renzi le piace? Renzi. Non sto seguendo, non sinceramente. E Berlusconi lo voterebbe ancora, lo voterebbe? Che torna in politica? Ma forse Berlusconi ha fatto il suo tempo, credo che adesso deve prendersi delle buone vacanze e lasciare altre persone, credo molto brave, alla guida del PDL e iniziare, diciamo, a rimettersi in setta il partito. Senti, Parenzo, a proposito della polemica sulla Minetti, scusami, saluti papà, a casa tutto bene, la mamma? Sì. Credo tutto bene, adesso io sono qua. Me li abbracci tantissimo. Ma che abbracciano se non ti conoscono? Ma non è che uno. Ma devi fare sempre. È un abbraccio fraterno, amichevole. Assolutamente. Ma senta, io vorrei capire. Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Questo ormai è un dato di fatto. Ma ormai che vuoi che ti dica? Non è che. Non è una novità. Non è esclusivo alla Zanzara Emanuele Filiberto. Ma guarda che ha riconosciuto la Repubblica e tutto già anni fa. Ma è bellissimo sentirlo comunque che dica viva la Repubblica. Vabbè, principe, siccome abbiamo purtroppo qui un personaggio come Parenzo, bisogna accontentarlo. Ma si è svegliato ora lui? Mi sa di sì, secondo me sì. Ha perso gli ultimi anni. Senta, ma lei sarebbe in grado di condurre un talk tipo quello di Santoro? Al di là del fatto che non lo farà mai, magari, ma non sarebbe. No, affatto. Santoro ha un grande talento ed è un grandissimo giornalista e non, sinceramente non potrei ecco, ma non, un no, talk così. Ma non si vergogna un po' di stare in quella fascia, non per lei, un po' di, non si trova un po' fuori posto a quell'orario? Ma guardi, fa ormai 2 anni che Santoro il giovedì su Rai 2 non c'è più, io i palinsesti non li faccio. Sì. Io no, non mi vergogno perché sto proponendo, a mio avviso, un bellissimo prodotto. Sì. No, certo, diverso, non c'entra niente con quello, eccetera. Senta, un'ultimissima cosa che dobbiamo chiudere, ma Mondadori, purtroppo, io fosse per me, se ma vuole teniamolo ancora. No, dopo un quarto, fra un quarto d'ora, io magari altre 2 mattine. Ho appena mandato un tweet dicendo che la vedo sulla webcam. Streaming. Come sono? Faccio schifo? No, non è male, si muove un po' tanto, è nervoso, eh? Beh, io conduco sempre in maniera un po' nervosa, ha ragione. Adesso, però, è bello, no, dinamico, dinamico. Poi è bel ragazzo. Beh, adesso. Ma non è che magari il principe. No, è che, magari, che c'è? Adesso. No, mi sembra che no. No, però torniamo sulla questione dei gay, eh. Fra un quarto d'ora la richiamo, 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo dopo il giornale radio. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist. Siamo qui, la zanzara riprende alle 19.17, 800 24 00 24. Sempre con David Parenzo, forse collegato da Roma, forse, e dico forse non a caso. Parenzo, ci sei? Berlusconi ci svela il piano. Alessandro Sallusti, dalle pagine de Il Giornale, racconta il cavaliere. E come lo racconta? Il mosaico comincia a comporsi. Silvio Berlusconi mette sul tavolo le prime tessere della campagna elettorale PDL. Lo fa a bordo della MSC Divina, la nave che sta portando in crociera nel Mediterraneo un folto gruppo di lettori del Giornale. È riposato, fisicamente in forma, ottimista come da tempo non lo si vedeva. Ha l'aria e lo spirito di chi vuole combattere fino all'ultimo. Non ipoteca il suo futuro personale. Farà, dice, quello che sarà più utile per il PDL e per il paese. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglio. Scandalo dei fondi PDL alla regione, Polverini una catastrofe come l'alluvione di Firenze, o si cambia o tutti a casa, per ora niente dimissioni. Cresce il pressing sulla Fiat, chiarire al più presto i piani per l'Italia, Fornero attenzione costante del governo, Cesare Romiti ospite del TG3. Giallo sulle mortalità all'Ilva di Taranto, sarebbe in aumento del 10%, il governo smentisce, domani l'azienda presenta il piano di risanamento. La cancelliera tedesca è diplomatica sul ritorno in pista con riserva di Silvio Berlusconi, sono democratica rispetto alle elezioni. Vendola parteciperò alle primarie solo se esco pulito dall'inchiesta sulla sanità. Renzi e Veltroni, le lusinghe di Berlusconi vogliono spaccare il PD. Prima si rifugiano alla moschea, poi riesce a dileguarsi uno dei leader delle proteste anti-americane, in piazza anche a Beirut e in Pakistan. Terremoto in Emilia, 40 indagati per il crollo dei capannoni che uccisero 11 persone, sotto inchiesta titolari, progettisti e tecnici. E ti ho trovato la canzone anche sul Batman, caro Parenzo, la canzone su Batman, l'immenso fiorito, il quale dice per esempio... Non ti sento, aspetta, me son magnato 12 bignello zabaglione, ma io poi dico, ma certi personaggi perché diventano così? Ma tu l'hai visto in foto, adesso siamo alla radio, ma lo hai visto in foto il signor Fiorito? Io, per carità, detto con tutto rispetto, ma se c'è proprio una persona che non deve cadere in una trappola, in uno scandalo, che non deve essere coinvolto, è il signor Fiorito. Se no uno per forza pensa male, ma lo hai visto in faccia o no? No, ma soprattutto non deve mangiare tutti quei bignè. Allo zabaglione. Perché... Allo zabaglione, amico mio, che te mangi? Scusi, tutti quei bignè, principe, una opera, amico mio. Principe, lei lo ha visto in faccia il signor Fiorito? No, lo sto guardando adesso su internet perché mi intrigava quello che avete appena detto. Beh, è una cosa, guardi, e io adesso... Io, guarda, io, io lo manderei, non lo manderei, prenderei la stessa cosa che faccio con Pechino Express, un euro al giorno per vivere. Questo è buono, questo è buono. A lui e a tanti altri politici, anzi dovrebbero fare tutti questo test. Un euro al giorno per campare, quello che lei ha scoperto in questo viaggio, diciamo, no? Che c'è gente che campa con un euro. Ma come si fa con un euro al giorno? Beh, adesso un euro al giorno è poco, però una cura dimagrante da questo punto di vista per il signor Fiorito, vivere per un periodo con un euro al giorno ci vorrebbe, no? Che dice lei? Io direi che non sarebbe male. Potrebbe anche dimagrire, credo, in India, da quelle parti lì, il signor Fiorito. Cioè, potrebbe anche farcela, senza bisogno di Dukan. Anche se con un euro al giorno tu in India vivi, anzi loro vivono e mangiano, sì. Però vivono dignitosamente, contrariamente a molti dei nostri politici, tra che guadagnano molto di più. Io volevo capire questo dal principe. Lei, principe, ritiene che l'onorevole Cesa sia uno statista? Ma che così, a freddo ma così. È una persona molto intelligente. Addirittura? Beh, no, veramente. No, io intelligente sì, può darsi. Sicuro. Devo dire che è una persona intelligente, Cesa. Sì, meglio di Casini, più di Casini, dice lei. Ecco. Ma guarda, questo non lo so. Ma è una gara. Persona intelligente. Mi sono mangiato 12 bignè. Lei ha mai mangiato 12 bignè allo zabaione, principe? No, io già con uno collassa quasi, collassa. Senta una cosa, ma vorrei capire da lei, mi ero segnato qui una cosa interessante. Lei, diciamo la verità, non è che fa televisione per campare, potrebbe vivere tranquillamente senza fare televisione. È un principe, beh, o no? Che discorsi sono? No, ma questo, di nuovo, adesso io non è che io, lontano da me lamentarmi. No, ma appunto. Non dimentichiamo una cosa, che dal 46 c'è diciamo la tredicesima norma transitoria. Il terzo coma ha sequestrato tutti i beni di casa Savoia. Mio padre ha lavorato, io lavoro, ho una famiglia, ho due bambine, ho una moglie e devo anche mantenerli. Non è che vabbè, avrà qualche soldo. Non è che c'è un trust Savoia che ogni mese sputa soldi. Beh, qualche soldo da parte ce l'avrà. No. Allora che sia più facile, che forse tutto quello che c'è intorno renda la cosa più facile, questo non lo nego. Però io lavoro, uno, perché mi piace lavorare in televisione, e anche perché i soldi servono per mantenere la mia famiglia, ma questo molti non lo vogliono capire. No, questo è interessante. Cioè, lei, se non ci fosse, se non lavorasse in televisione, eccetera, eccetera, qualche difficoltà ce l'avrebbe. No, non mi dica così. Ma perché no? Guardi, io sono un ragazzo di 40 anni che ha una vita, che ha una famiglia. I soldi non è che neanche per me non crescono sugli alberi. Dunque, cioè, se non lavorassi, avrei, come tutti gli altri, avrei problemi a campare. Di nuovo, ripeto, sono molto più fortunato che tanti altri. Ma questo... Vabbè, questo che c'è, questo è così, però la domanda era precisa, cioè, se lei non lavorasse in TV qualche problema potrebbe averlo? Ma io prima di lavorare in TV lavoravo in banca, io per 12 anni ho lavorato in varie banche. Devo lavorare come tutti. Senta, ma oggi Rupert Everett, un attore, ha detto che non c'è cosa peggiore che l'adozione tra coppie gay, lei è d'accordo? Guardi, io ho degli amici gay che hanno adottato, che frequento, e vedo come fanno crescere i loro bambini e li fanno crescere veramente come se fossero in una famiglia. Oh, diciamo, finalmente. Non mi piace neanche usare la parola normale, perché oggi non esiste giusto, più giusto, sì, bene sì. Parola. Bene. Come in una famiglia donna e uomo. Anzi... gli danno tanto affetto, tanto amore, forse qualche volta anche di più che le altre famiglie. Dunque io non sono affatto contrario all'adozione per le gay. Benvenuto nel club, caro Parenzo. Finalmente abbiamo un adepto da questo punto di vista. Noi siamo ormai testimonial sia del matrimonio gay che dell'adozione gay. Forse è un principe illuminato, lo sapevamo. Beh, ma insomma, questo qua è una cosa giusta. Non esageriamo, ancora molto da imparare. È un principe gay friendly. Gay friendly, diciamo. Principe gay friendly. Eco and gay friendly. Beh, eco and gay friendly, questa è una accoppiata un po' eco, perché non è che le due cose vanno insieme. Ecco. No, però visto che si usa molto la parola eco-friendly, bisogna essere eco-friendly e gay-friendly. Ma di nuovo, usare queste parole a me... Ma è un gioco, è un gioco. Non piace, perché già questo significa che c'è una differenza tra loro e noi, e non c'è differenza. Senta, un'ultimissima cosa è questa. La Mondadori, proprio per concludere la vicenda delle tette di Kate, ha fatto bene a pubblicare, sì o no? Me lo dica chiaramente. Io sinceramente dico di no. Ma come no? Cioè, bisogna avere rispetto. Uno non interessa. No, ma sinceramente la vita privata va rispettata delle persone. Penso che ci sono cose molto più interessanti da pubblicare. Sono giornali scandalistici, usano questo giustamente per fare pubblicità. Io sinceramente non l'ho neanche comprato, perché non mi interessa vedere le tette di Kate. Vabbè, poi però le ha viste poi su internet, è uguale, su internet l'ha vista, ha detto pure che non sono male. No, sono passato davanti al... ho capito. Perché sono uscito in Francia prima di uscire in Italia. Sì, sì. Cioè, non si può, secondo lei non è questione di reali, cioè non è questione che bisogna proteggere i reali in qualche modo. No, io penso che bisogna comunque e per questo la legge francese, quella famosa legge Pompidou, è una legge molto importante che dovrebbero anche fare in Italia e negli altri paesi. Bisogna proteggere a un certo livello, come si proteggono i bambini, la vita privata. Ci sono dei momenti, io vedo che quando faccio promozione, quando lavoro, mi do a tutto, faccio interviste, faccio foto, però qualche volta ho anche voglia di essere tranquillo in vacanza con le mie figlie, e se voglio mostrare il culo al sole lo faccio. Grazie Principe, Pechino Express, Rai 2, giovedì sera. Quello che avete visto in prima puntata non è niente in confronto. Beh, è andata pure bene, no? È andato pure bene. È andato bene, c'è un bellissimo buzz in più su internet, su Twitter e su Facebook. Però la seconda e poi botti pazzeschi, botti pazzeschi. Magari non la tolgono più, non la tolgono più per tutta la stagione, la mettono a posto in quel che fu il posto di Santoro fino a maggio, giugno, che ne sappiamo, può essere, tutto può essere. Grazie. Ormai Santoro è su un altro canale. Su un altro canale, certo, grazie. Mangia stasera, Principe. Che mangia stasera, che gli frega, che mangia. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. Ti voglio leggere alcuni passaggi con la musica da violino. Mi imbarcavo d'estate per portare a casa qualche soldo, ecco, sulle navi coste e grandi viaggi. Di mattina facevo i giochi sul ponte, di pomeriggio la guida turistica anche in città che non avevo mai visitato in vita mia, ma su cui mi preparavo sui libri. Di sera prima cantavo nell'orchestra jazz, poi di notte da solista voce e chitarra, sempre Dani Daniel, dopo le tre invece. Questo è Berlusconi che racconta a Sallusti la sua vita, eh? Quando cantavo a Parigi con lo pseudonimo di Dani Daniel, Le Figaro scrisse che davo particolare espressione alle parole delle canzoni. Facevo gli album completi dei funerali, poi sono stato promosso ai matrimoni. Erano anni in cui la carne non si mangiava quasi mai. Ma perché non si mangiava mai? Vabbè, andavo a fare la spesa e bucavo la bottiglia del latte della centrale di Milano, bevendone un po', e poi allungavo con acqua per non farmene accorgere. Da bambino andavo nei mercati vicino a casa mia il martedì e il sabato, raccogliendo i fogli di carta gialla che si usavano allora, li portavo a casa, li bagnavo nella vasca, poi li asciugavo e li vendevo per accendere le stufe. Questa non la conoscevo. Quando andavo a comprare chili di mais e li portavo a casa a piedi, davo a una vecchietta bisognosa i soldi che la mamma mi aveva dato per il tram. Siamo allo spettacolo puro. Torna! Torna tra noi definitivamente Silvio Borsa. Cosa le ha detto Alfano? Non dico nulla. Cosa ha detto? Cosa le ha detto? No, volevano solo dei chiarimenti, tutto qui. Ma questi 900.000 euro siete appresi? Sì, siamo, no? Assolutamente no, se no altrimenti non starei qui ma starei in galera. Una volta disse: me so magnato 12 bignè allo zabaione. E anche me so conservato delle ricevute false di tutti i consiglieri, pure di quelli che con i soldi del PDL andavano in giro con l'amante. Furibonda la Meloni, perché hanno messo in mezzo la sorella, precaria della Regione Lazio, in congedo maternità, ma secondo Batman invece praticamente una, come dire, un consulente allegro in quanto a presenze. Compri la BMW con i soldi del gruppo, che sono soldi degli italiani, trasferisci i soldi su un conto estero e il PDL non può avere nessun imbarazzo a dire che devi essere cacciato a calci nei denti fuori dal partito. Ma capito, perché non lo fate però? Fatelo subito, immediatamente. No, vedi, dimmi. Che c'è? Vedi che quando succedono cose come queste, qualcuno come la Meloni alza la voce per dire sei indegno, devi andar via. Quanti sono, chiedo io umilmente, caro Cruciani, quanti sono quelli che andrebbero, dovrebbero avere lo stesso trattamento di Air Batman, ad esempio? Quanti? Quanti? Perché per altri casi non si è alzato nessuno? Nessuno? Nessuno? Siamo qui, la Zanzara, 800-24-00-24, ascoltatori, ascoltatori, Paolo, niente, tu, Paolo da Lucca, Paolo sei silente, anzi, prima colluso. Ma che colluso? Oh, Paolo, dica, Paolo. Signor Cruciani, buonasera. Che c'è? Vorrei fare una piccola parentesi su questo Batman. Che è successo? Che no, parentesi vuole fare? Nel senso che questo Batman è un personaggio senz'altro che ci lavorerete molto bene sopra. Sì. Però vorrei ricordare, sì, se lei non l'avesse ancora fatto, di un, sì, premio importantissimo che ha ritirato sabato a Forte dei Marmi. E vabbè, mica facciamo qui, non è che qui ci facciamo l'autocelebrazione. Abbiamo vinto il 40° premio della satira politica, radiofonica, premio Forte dei Marmi. Ma bisognava dirlo. Ma io non lo dico, ma che devo fare l'autocelebrazione adesso, Paolo? No, lei ci chiama, no, ci vuole ricordare questa cosa. Va bene, la ringrazio, Paolo. Ci tenevo a ricordare questa cosa e anche al nostro Barenzo, che praticamente non c'era. Bravo, ecco, ha fatto bene a ricordarlo. Ha dato il bidone. Glielo porta lei quello sculturone di 10 kg, gliel'ha consegnato? No, glielo consegno un'altra persona, io glielo do in testa la scultura da 10 kg. Quale bidone? No, ma che bidone? Che c'è? Hai dato bidone, non sei venuto, punto. Ha basta. Bidone, lo querelo per diffamazione. No, ha ragione lui, non c'eri, hai dato bidone a un sacco di gente. Grazie, Paolo. Purtroppo collegato. E chi se ne frega? Andrea da Milano, buonasera. No, non devo dire purtroppo perché sennò poi mi No, purtroppo ricollegato. Andrea da Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani, buonasera. Dica. Senta, io volevo fare un intervento serio a proposito di Renzi. Sì. Però poi mi ha anticipato un po' una notizia del TG3, quindi già che sono al telefono volevo farle complimenti. Cioè, che c'entra TG3? No, perché Veltroni ha detto che i complimenti di Berlusconi sono tutti tesi a sfigare Renzi, beh, cose serie. Ma io non lo so, guardi, la questione di Berlusconi-Renzi è abbastanza chiara. Cioè, se Renzi vincesse le primarie del PD... E dopo è tutto finito. Ovviamente Berlusconi avrebbe grandi difficoltà dopo, un vecchio contro un giovane, eccetera, eccetera. Primo questo. Senta una roba, volevo dire Secondo una roba però, voglio dire una cosa, c'è un'effettiva simpatia di Berlusconi per Renzi. Cioè, c'è anche... Effettivamente Renzi dice delle cose, alcune delle cose che dice Renzi, Berlusconi le dice da un sacco di tempo. Il problema è che Berlusconi non ha fatto un cazzo, invece Renzi deve ancora dimostrare di saper fare qualcosa. Senta, le devo dire una cosa, Cruciani. Allora, in mezzo a tutta questa gente che si fa le pompette e come Sgarbi, anche Mister Barzotto, io volevo farle complimenti perché è un'amica che invece è passata nel suo diretto. Beh, vabbè. Bravo, Andrea, lei è un cretino, lo sa? Cioè, lei è un emerito cretino, insomma. Lei è un cretino patentato perché vuole mettermi in difficoltà, ma non ci riesce. Tu non ridere, imbecille. Vuole metterci in difficoltà, ma non ci riesce, Andrea, non ci riesce. Ma non mi interessa, lei può dire quello che vuole, ma non mi interessa, tanto non glielo faccio dire perché non interessa a nessuno, non interessa a nessuno, cioè, che lei racconti queste storie che non riguardano argomenti di attualità, ma riguardano la mia vita privata, che lei venga qui a raccontarci queste cose è patetico e ridicolo, ha capito sì o no che lei è patetico e ridicolo? No, ma le lo ha capito che basta che lei capisca. Io sono patetico e ridicolo perché voglio raccontare una cosa che non c'entra nulla di nulla con le cose di cui stiamo parlando. Sì o no? Lei lo ammetta, lei sono patetico. Ma no, le faccio i complimenti. Lei può fare tutti i complimenti che vuole, me li faccia in privato se vuole, scriva sulla mia mail, eccetera. Non c'è bisogno che me li faccia in pubblico davanti alla gente. Oppure vuole fare il furbo, pensa che io la lasci parlare così racconta qualche stronzata. Me lo dica. No, ma ci mancherebbe. E allora complimenti di cosa, imbecille? Cosa? Quali complimenti? Come lotta? Quali complimenti di cosa? Di cosa? Complimenti di che? Visto che qua si mette tutte le sere in piazza la vita privata delle persone. Ma cosa c'entra? Ma quale vita privata di che? Ma di che sta parlando? Cioè, quando io decido di dire qualcosa, decido di dire qualcosa, no? Se mai dovessi decidere di dire qualcosa, certamente non lo farò qua. se mai uno dovesse dire, dovesse decidere di dire qualcosa, perché deve uscirsene con queste cose? Perché? Per mettermi in difficoltà qui, raccontando, raccontando storie. Come rosico quando si tratta di lei. Ma che rosico cosa, Andrea? Di solito, ma rosico cosa? Po'. Cosa rosico, Andrea? Cosa? Cosa rosico? Rosico un po', adesso. Ma non rosico per nulla, guardi, sono tranquillissimo. La facevo più. Ma sono tranquillissimo, guardi, sono tranquillissimo. Sono, analizziamo con lucidità. No, non c'è niente da analizzare con lucidità. No, dico, non dico le parole del radio scuola, dico analizziamo con lucidità la situazione. Ma quale situazione? Ma non c'è nessuna situazione, ma stava parlando di chissà che cosa, come, quando e perché, non mi interessa, non è interessante. Allora si vergogni. Ma non si deve vergognare, voleva fare il furbo con me, ma non c'è. Cioè, ma che furbo? Andrea, sono più forte perché posso togliere la parola, forse non ha capito bene. No, cioè, lascialo però, dai. Cioè, no. Siamo al telefono da un quarto d'ora, Cruciani. Sì, ma certo, la tengo perché so usare bene questo microfono. Allora facciamo delle chiacchiere, parliamo anche del tempo. Ma perché bisogna parlare del tempo? Con lei io devo parlare del tempo? No, appunto, dico. Allora? Allora niente. Vabbè. Sandro da Livorno, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, allora, volevo dire che secondo me, per quanto riguarda la questione di Kate e William, no? Sì. Della futura regina, che discende ovviamente dagli dèi, come anche Emanuele Filiberto, sì. Secondo me doveva usare più attenzione. Ecco. Lei, giusto, bravo. Quello che abbiamo detto prima. Bravo, anche perché, insomma, guardi, lo dico e uso un parallelo. Sono rimasto male di Kate e di William, che dovevano usare più attenzione, come nella stessa maniera quando vidi, quando seppi di Berlusconi, che aveva invitato anche la figlia di Mubarak. Io rimasi male, soprattutto perché le forze dell'ordine misero in dubbio la parola di Silvio Berlusconi, ma in realtà secondo me era la figlia di Mubarak, veramente. La nipote al massimo era. La nipote, sì. Perché lei è convinto che fosse la nipote di Mubarak, scusi. Sì, era la nipote di Mubarak. Vabbè, lei lo dice così per scherzo. Lei ha avuto dei problemi di memoria in famiglia, no? Lo so di certo. Lo sa di certo che era la nipote di Mubarak, la signora Ruby, Sì, vabbè. Sì. Bravo. Lei ha fatto l'esame. Ma è livornese, sta scherzando, è uno di quei livornesi. No, io sono di Livorno. Sì, ma uno di quei livornesi che giocano, scherzano, il vernacoliere, eccetera, eccetera. È roba da vernacoliere questa qua, no? Ma certo, questo. Sono sicuro, era la nipote di Mubarak, è roba da vernacoliere. Io sono sicuro, ma molti. Ma quale certezza ha lei? Perché sì. Io credo molto in quello che dice Silvio Berlusconi. Quindi secondo me. Paura che dica sul serio. Forse dice sul serio. Io temo che dica sul serio. No, fosse una... era la figlia di Mubarak, ma guardi. La nipote, scusi, abbia pazienza. Perché quindi, secondo me, anche come rimasi male anche di Berlusconi, che comunque. Sì. Cioè, sarei rimasto male fosse stato vero. Sì. Se fosse vero che Kate è stata. Secondo me è un fotomontaggio poi. Sì? Secondo ma me... che fotomontaggio? Quando mai? No, è vero. Ma quale fotomontaggio? Lei crede anche agli UFO? Questo dipende se me lo dice Silvio o meno. Se te lo dice, se glielo dice Silvio. Se Silvio dice di sì... Vabbè, ma sta scherzando, su, sta scherzando. Sandro sta scherzando. Grazie, Sandro. È con noi, caro Parenzo, un ex governatore di una regione del PDL, un nostro amico. Dunque, potrebbe essere, non è fitto, non è tanto amico. Cioè, no, ma... Ma allora ti provo a chiedere, è uno che fa battaglia, che la dice, che la canta tutti? Abbastanza. Gli piace pescare il tonno? Il tonno non lo so, pescare sì, però non affrontare questa storia della pesca in questo momento, perché ha un piccolo contenzioso con un sindaco della sua città, con cui è entrato in un conflitto spaventoso, devo dire la verità. Col sindaco della tua città, Padova, è con noi Giancarlo Galan, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Vero, liberale. Benissimo. Senta, ma perché ve ne date di santa ragione con Zanonato? Guardi, Zanonato proprio negli ultimi giorni ha parlato di lei in questo modo, personaggio volgare e inutile. In precedenza aveva detto energumeno fannullone, ma insomma, è una cosa pazzesca. Un vero signore, insomma, un elegante, un inglese. anche lei però non è che ci è andato leggero, ha fatto una critica politica dicendo che vuole trovare un posto in un'azienda locale, vabbè, qui c'è una storia, lui fece le barricate contro la fusione di due municipalizzate, sì, quella di Trieste e quella di Padova, fatta dal precedente sindaco, dicendo che Padova non avrebbe contato niente, invece era quasi paritaria, e adesso la svende. Beh, ma quella è critica politica, Vabbè, questa è la sua critica politica, invece lui ha detto quelle parole lì, personaggio volgare inutile, e poi che ha detto pure? Col patrimonio, come no, il patrimonio dovrebbe parlarci di un patrimonio personale difficilmente spiegabile con i proventi di Presidente della Regione Veneto, cioè praticamente sta dicendo che lei si è arricchito in maniera dubbia, questo appunto è il punto. Io che cosa potevo fare? Ma scusi, che patrimonio di essere Befera lui? Che patrimonio ha lei? Ma che patrimonio vuoi che abbia? Non lo so, ma è strana sta cosa. Dunque, uno potrebbe pensare da questa cosa che ha detto Zanonato, dunque bisogna chiarire che lei ha un patrimonio pazzesco, Galan. No, non sono come Berlusconi, no, neanche molto meno. Ma è più ricco lei o Zanonato? Boh, io ho fatto qualcosa nella mia vita. Zanonato un po' meno, Cioè non ha fatto nulla, scusi, ha fatto... Insomma, faceva il funzionario di partito, quindi... Ha fatto sempre il lavoro di onesto politico. Però ha fatto quello... Onesto non lo so... onesto politico, non ha mai avuto un'inchiesta, niente, anzi... No, ce l'ha avuta chi, io o lui? No, lui le ha avute, come le inchieste. Non ha mai stato mai rinviato... Adesso, ma non è che fai l'avvocato di Zanonato, Parenzo? Ma Parenzo lo sa bene che ne ha avute di inchieste, come? Cioè lei non la definirebbe condannato? Ma chi se ne frega? Non è stato un politico onesto secondo lei? Come politico è stato modesto, credo anche abbastanza onesto. Prima non so, i giudici l'hanno assolto, ognuno potrà, ma non mi interessano, queste sono questioni personali. Come sindaco di Padova dico che è stato un sindaco modesto. La sua opinione. Va bene, abbiamo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito. È 800 24 00 24, restate qui, ne sentirete delle belle, la Zanzara fino alle 21. Eccoci qua, è con noi Giancarlo Galan, PDL, già ministro, come sapete, dei beni culturali, me lo ricordo, già anche dell'agricoltura, già presidente della Regione Veneto, in conflitto da tempo, e poi c'è stata una nuova esplosione di questo conflitto con il sindaco di Padova, Zanonato. Qualcuno pensa che lei si voglia candidare a sindaco di Padova nel 2014, sì o no? Ma io non lo so, ma manca un anno e mezzo, ma come si fa a prevedere cosa succederà fra un anno e mezzo? Chissà se c'è il PDL fra un anno e mezzo, no? Appunto, ma chissà se c'è anche il PD, chi lo sa. Beh, il PD forse ha più possibilità di resistere del PDL. Qualche dubbio. Chissà, comunque sarà comunque troppo presto. Però scusi Galanne, però questa storia del patrimonio è una cosa gravissima detta da Zanonato. Difatti l'ho querelato. Cioè, se uno dice, insomma, bisogna indagare su un patrimonio come si è fatto questo patrimonio, uno getta un discredito su una persona, poi naturalmente saranno i giudici a deliberare, a certificare se c'è stata una diffamazione o no. Però, mi scusi, lei, lo dica chiaramente, il suo patrimonio a quanto ammonta? Ah, non lo saprei. Come non lo sa? Non lo so, ho una bella casa, ma non è un granché, una cosa, non ho nulla di... Cioè in banca né quanto quadri, ha? Né ori, né, ma per carità. Ma in banca quanto ha? Ce n'ha... In banca sono solo dei passivi. Solo passivi? Faccio prestissimo in banca, non voglio neanche contare quanti numeri negativi, che numeri negativi ho. E dunque il patrimonio è in rosso in banca, sono in rosso in banca. Ma perché per fare una casa no, si va in passivo, io sono in passivo. Ma ha 2-3 soldini sul conto corrente? No, non ce li ha, ha detto che non ce li ha. Ma voglio capire un attimo, Cruciani ce l'ha. Ha detto i conti correnti sono passivi, poi ha come patrimonio, no, perché siccome non è che l'ho messo io in ballo. Ma io non ho capito, scusa, cioè, questo è importante, cioè, se io sono in passivo, io sono in rosso, per fortuna non mi è mai capitato, perché ci sono poche migliaia di euro, ci sono pochissimo, ma se lei Galan va col bancomat, no, va lì col bancomat e ma che c'entra? Ma non hai capito, non sai come funzionano le cose, non è che non ti fanno ritirare i soldi, sei in passivo, punto e basta, si fidano di Galan e gli prestano i soldi le banche. Ma di quanto è in passivo? Non, abbastanza, perché comprare una casa comporta un passivo significativo. Non lo so onestamente, non lo so perché viene tutti perché non le seguo io queste cose, le segue il commercialista e mia moglie, ma abbastanza. Comunque non lo so, sparo a caso, ma, sì. ma saranno 300.000 euro. Sono 300.000 euro di credo, sai, pressa poco. Di debiti, insomma, diciamo, di debiti. Cifra umana, anche se rilevante. E come li copre questi 300.000 euro? Scusi, mi faccio. Allora li coprirò in qualche modo, non so. Li coprirà, intanto li copre mia moglie, e dopo li coprirò anch'io quando ricomincerò a lavorare, a fare qualcosa. La politica può dare una mano? Ritorno in Parlamento? Da questo no, punto? Non credo mica, no. Non credo mica, ma insomma. Ma comunque sono in tanti ad avere un mutuo in questo momento. No, ma certo, per carità. No, ma la cosa curiosa è questa qua, cioè lei al di là di questa casa non ha un patrimonio, perché uno dice se è fatto sull'origine del patrimonio di Galan bisogna indagare, dice Zanon. Guarda, noioso, perché tutto quello che c'è è nella mia dichiarazione che ho fatto quando ero presidente della regione e quando sono stato parlamentare. Quindi là c'è tutto, compresi i miei guadagni prima e dopo, è tutto, per cui è soltanto un'affermazione volgare, io credo che non insomma, che sia un po' trista questa. Ma scusi, magari fa riferimento a... Guarda, il mio patrimonio, azioni comprese che non ho, è pubblicato sia alla Camera dei Deputati, al Senato, sia per cui oltre alla casa che c'è, che ne so, azioni, ci sono azioni? Che no, c'è? Azioni ce ne sono pochissime di una banca. La famosa barca ho il mutuo, la banca con cui ho il mutuo. La famosa barca che ancora non ha venduto. Vabbè, ma quella guarda, se te la vendo subito ti faccio un prezzo buonissimo. No, a me no, io odio le barche, per carità, cioè, non sopporto le barche. Non spendi, non ti serve un mutuo per comprare. No, e poi che c'è nel patrimonio? Basta, non è che ha case sparse all'estero, cose di questo tipo. C'ho un appartamento a Rovigno in Croazia. A Rovigno in Croazia. Vabbè, secondo il signor Zanonato, bisogna indagare sul patrimonio di Galan, capito, Parenzo? No, forse avrà detto, non ho letto l'intervista. Ma non è l'intervista, ha detto così, c'è scritto la io perché. È un tipo così che si eccita, si scalda, offende, ma è tradizionale questo da parte sua. Solo che questa volta è un'offesa proprio personale e per la prima volta ho querelato qualcuno. Farebbe bene piuttosto a parlarci di un patrimonio personale difficilmente spiegabile con i proventi di presidente della Regione Veneto. Vabbè, mica. No, forse avrà detto, adesso non lo ma so. Perché, non ma perché tu fai l'avvocato difensore di Zanon? Vabbè, ma è giusto anche perché non è qui. Per cui... Interpreto, forse ha detto, bisogna capire come un presidente di regione guadagna X, la casa costa X, bisogna capire, capire come. Fermo, io ho fatto qualcos'altro nella mia vita prima. Lavorava a Publitalia. Tutto, ecco, ci lavoravo anche a un certo livello ed è tutto nelle dichiarazioni. Ma poi, mica è befera questo, ma che parli di politica, no? Capace di discutere politicamente, no? Deve offendere personalmente. Finché lui faceva, per carità, non gli faccio mica una colpa, ma finché lui faceva il funzionario di una cooperativa, io facevo il direttore centrale di Publitalia. Ma non è un crimine fare funzionare una cooperativa? E mica ha detto che fa. No, non è un crimine fare. Lui ha fatto qualcosa per cui è stato pesantemente inquisito, ma insomma. È assolto. Che io no finora. Ecco, e dopo però lo stipendio era un po' diverso, e comunque è tutto pubblicato. Allora torniamo subito dopo la pubblicità perché parliamo di politica però nazionale, parliamo di Renzi, parliamo del PDL, no? Però per forza non mi riconosco più. No, però Galan, questo ci voleva perché insomma a noi le battaglie piacciono, dunque quando c'è la battaglia uno contro l'altro ci piace un po' stuzzicare. Pubblicità, torniamo subito. Renzi, sentiamo un po' di Renzi, un po' di Renzi, la replica a Berlusconi, quando Berlusconi dice che Renzi ha le nostre idee, sentiamolo, via. Probabilmente Berlusconi ha paura che le primarie le vinca qualcuno che poi lo sconfigge alle elezioni, perché Berlusconi sa perfettamente che in caso di nostra vittoria alle primarie, lui sarebbe il primo da rottamare. E quindi Razzi e Scilipotti, dove li ha trovati Di Pietro? Nel Gratta e Vinci? I parlamentari che vengono messi in Parlamento cambiano schieramento con la facilità e l'agilità delle farfalle. Qualcuno dovrebbe chiedere al senatore Di Pietro: ma come hai fatto a mettere Scilipotti? Ma come hai fatto a mettere Razzi? Ma dove li hai trovati? Nel Gratta e Vinci? Vabbè, Galan, ministro, ex ministro del PDL, ex governatore della Regione Veneto, a lei piace Renzi, a molti del PDL piace, diciamola tutta. Ma onestamente non mi è antipatico, però sta dall'altra parte, insomma. Beh, insomma. Però come si fa? A me piace, sì, mi piace, anche se dice cose diverse da quelle che dico io. Beh, che cosa dice di diverso, scusi Galan? Lui, con lui un partito, una, ci sarebbe un centro-sinistra di stampo socialdemocratico, quindi non ci sarebbe pure lei socialdemocratico, ma non mi pare. Noi diciamo cose liberali. Guardi che pure lui si avvicina molto a quelle idee lì, Galan. Sì, per carità, molto, certamente molto di più di tanti altri, certamente non lo vedo con Vendola o con qualcuno del genere. Per carità, è vicino, sarebbe un bel confronto, ma questo avviene in tanti paesi del mondo. Resta lontano comunque, resta lontano. Ma no, non è che resti lontano, resta dall'altra parte. Insomma, sarebbe bello se in Italia si potessero fare le competizioni elettorali con due partiti, di cui uno guidato da Renzi e uno guidato da X, una personalità liberale, non dico chi ovviamente. Perché non dice chi? Berlusconi ormai... Perché per non favorire uno, per non prendere posizione uno o l'altro. Montezemolo le piace? Sì. Montezemolo le piace? Certo che mi piace, è uno che ha fatto tante cose nella vita, mi piace Giannino, mi piacciono in tanti. Qual è la personalità che potrebbe riunire i cosiddetti moderati? Chiamiamoli così, più Montezemolo, Giannino, Montezemolo, chi è che vede di più? Te la posso dire come la vedo, perché come no? possono essere in tanti, che in questo momento si affollano tutti al centro dove non c'è spazio. Esatto. Non c'è spazio per Passera, per Montezemolo, per Casini, per Giannino, per quant'altri. Ci sarà per posto o per Passera o per ma tra questi, signore. Ma tra il fatto che a decidere chi sarà è proprio Silvio Berlusconi. Ah, lei dice, eh? Sì. Però scusi, tra il PDL come lei lo conosce oggi e un'ipotetica lista guidata da Oscar Giannino, lei non avrebbe dubbio, voterebbe per Oscar Giannino, immagino. Ma neanche per idea voterei per il PDL. Scusate, invece tra Renzi, con la simpatia che posso avere per Oscar Giannino, ma voterei mille volte per il PDL. Meglio Renzi di Gasparri? La dica tutta. Dai, l'ho detto. Di La Russa pure, di La Russa pure. Molto meglio, sì, molto devo meglio. Devo essere sincero. Però di molti del PDL è meglio Renzi, di molti. Sì, per carità, ma ci sono anche tanti del PDL che sono molto, ma molto meglio di tanti del centro-sinistra. No, sì, d'accordo, però Renzi è molto meglio di diversi dirigenti del PDL, diciamola tutta, da rottamare, no? Non tutta da rottamare, come sempre c'è del buono anche dall'altra parte, sì, ecco. Sì. Però insomma, se io dovessi, ne salverei molti dalla mia parte e parecchi anche dalla parte opposta. Scusi un attimo, come senza far nomi? Gasparri e La Russa l'abbiamo detto, poi un altro nome in cui Renzi è meglio di chi? Di La Russa e Gasparri l'abbiamo detto, diciamo un terzo nome, anche di Verdini è meglio? Ma no, io voglio più vedere Verdini. Meglio di Cicchito? Cicchito non ha nessuna colpa, anzi è uno molto bravo, ma solo che è l'immagine dell'antico. L'immagine dell'antico. Non è colpa sua. Ma è così. Ha fatto il suo tempo. Verdini ha fatto il suo tempo pure lui, oppure no? Ma chi lo sa, è tutto in evoluzione. Ecco, prima mi hai chiesto, lo vedi Silvio a Palazzo Chigi? Io sì, io lo sogno. Beh, perché addirittura tutto in evoluzione, di notte lo sogna e chissà che cosa succederà. Di notte lo so. Farà sogni erotici, spero. No, non faccio più sogni erotici. Niente, sogna Silvio. Sogno molto poco, sogno di più occhi aperti. Però invece dei sogni erotici sogna Silvio, diciamo la verità. Ogni tanto Silvio a Palazzo Chigi ogni tanto lo sogno, è stato un periodo bello. E com'è il sogno di Silvio a Palazzo Chigi? Uno di notte sogna Silvio a Palazzo... cosa immagina lei nel sogno? Ecco questo. Cioè, immagina, poter entrare nella stanza più importante del nostro, della nostra Italia e parlare con l'uomo che in quel momento ricopre la più grande responsabilità. E lei farebbe parte di questo, in questo sogno? Lei che fa tipo il segretario alla presidenza del Consiglio, no, il braccio destro? Nulla, osserva. Faccio quello che capita, come si fa. Io, se avessi sognato 20 anni fa che cosa avrei fatto in questi 20 anni, beh, non avrei certo sognato quello che poi mi è capitato di fare. No? Senta Galan, ma si può dire che il PDL è pieno di Batman? Ha visto la storia di questo Fiorito, no? Eccetera. Si può dire che il PDL... Guarda, posso, è una cosa che mi mette una tristezza. Lo so. Vero. Si figuri. Sai a me... Mi consola? L'unica cosa che mi consola è che in Veneto, sì, non solo per la qualità delle persone, ma anche per le leggi che ci siamo dati, sì, per il funzionamento del Consiglio regionale, una cosa così non è neppure lontanamente ipotizzabile. Cioè, dunque, è una questione quasi culturale, dice. Ma non diciamola tutta, no, diciamola. Sono anche le leggi. Sì, però i veneti... Che il tesoriere del gruppo possa comprarsi un'automobile. No, ma infatti non esiste. Ma secondo lei è una cosa tipicamente laziale. Però secondo me c'è questo aspetto, tra l'altro. Cioè, in Veneto una cosa... della romanità. Ma io non credo questo, è una cosa tipicamente purtroppo umana, delle qualità umane peggiori. Ma il PDL è pieno di questi signori di Batman? Mi dica... Ma non è pieno, ma perché gli altri non ne sono mica pieni? Però in questo perché modo... Lusi sì, anche Lusi, è vero. Fa parte della natura umana che c'è nel PDL, nella Lega, c'è dappertutto, ahimè. Gli uomini non sono tutti di qualità buona. Comunque in Veneto non potrebbe mai accadere una cosa del genere. No, perché ci sono le leggi anche che lo impongono, non potrebbe succedere a nessun gruppo, ci sono leggi del Consiglio regionale che si sono dati i consiglieri regionali negli anni 70 ancora, che rendono impossibile. Ma la Polverini si dovrebbe dimettere, secondo lei, per questa roba qua? No, secondo me io credo di no, anche se io non ho grandi simpatie, come è noto, ma non dovrebbe, mica è colpa sua, insomma, se trova un disonesto, anche se meglio sempre aspettare che ci sia una condanna, ma vedo da come ha reagito che ha reagito male, ma la Polverini che c'entra? Insomma. Però è vero che non c'entra, ma non è un po' curioso, lo diciamo prima con Parenzo, cioè è curioso che, porca miseria, uno si accorge di questa cosa sempre dopo, cioè gli scandali, i modi in cui vengono gestiti i fondi, è una cosa che emerge solo dopo. Ma prima? Ho capito, se hai dei, come dice lei, se ci sono delle leggi o addirittura un controllo, cioè com'è possibile che uno, questo signor Batman, questo Fiorito, possa tranquillamente utilizzare i fondi del partito per comprarsi le macchine, per andare in vacanza a 30.000 euro perché è troppo stressato dalla campagna elettorale? Ma è una cosa per cui uno dovrebbe essere preso a calci nel sedere un secondo dopo da un partito. Galan, il suo partito... Assolutamente, ma lo fai quando lo scopri, no? Ho capito, però un controllo prima ci dovrebbe essere. Come che Lusi si sia messo in tasca 18 milioni? Perché nessuno controlla quei conti, perché tutti ne approfittano. Le leggi della Regione Lazio sono fatte, vanno riviste. Io ho capito. Quelle del Veneto, ti assicuro, no, rendono impossibile. Comunque, Parenzo, io ho capito perché in realtà nel patrimonio di Galan non c'è quasi nulla, perché un ascoltatore mi ha mandato delle foto della villa di Galan ad Abano Terme. Non è Abano, è Cintoganeo. Vabbè, scusi, è Cintoganeo. Ed effettivamente è una villa, insomma, importante, diciamo, no? Dunque sì, ci ma sarà... Guarda, costa come un appartamento importante, un bel appartamento, guarda, in centro a Padova. Uguale. Ma ognuno può, ma insomma, io me li sono guadagnati anche questi. No, ma io mica stavo mettendo in dubbio nulla, per carità. Cioè, è il sindaco della sua città che ha messo in dubbio... No, guarda, è una villa molto bella, con un grande giardino, dove lui peraltro ha celebrato anche il suo matrimonio con la moglie, in quella villa lì, è venuto anche Berlusconi. Chi vuoi che lo faccia il matrimonio? Certo che ero con la moglie quando ho fatto il matrimonio. Ed è indubbiamente una villa molto, molto, molto bella, signorina, importante, una bella marchesa. Poi voglio dire, cioè, mica l'ho messo, è il sindaco della tua città, il tuo amico Zannato. No, adesso ancora con questa polemica. Ha detto è mica capace di fare una critica politica. La faccia, a me piace quando fanno le critiche politiche, tutte. Io gliel'ho fatta. Ma è una critica politica. Sta facendo un danno alla città di Padova. Svendendo la municipalizzata a ERA. Siccome non capisco perché si deve fare un danno. Va bene, lei ha fatto una critica politica su questo. Scusi un attimo, per concludere, però Berlusconi dovrebbe pure finirla con questo tentennare continuo. cioè il tentennamento di Berlusconi sulla candidatura, francamente è un po' ridicolo. Lei che è un berlusconiano di ferro, uno che sogna Berlusconi a Palazzo Chigi, glielo dica. Silvio, di una volta no, no, ti fermo, non sono d'accordo. Ma come no? Ha detto che è meglio tacere, c'è un tempo per tacere e un momento per riflettere, ha fatto 3 paginate sul giornale in una cosa fiume di 50 minuti un secondo dopo. Ma è meglio riflettere ancora parecchio, insomma torna con un attimo al 94. Nel 94, nel settembre, a questa data, qui al 16 settembre del 93, dell'anno prima, del 93 non c'era nulla, assolutamente Ma sono nulla. Passati pure 20 anni. Quindi quasi. Di tempo, siccome si voterà in marzo probabilmente... Sì. È di tempo per far organizzare le cose, ma perché Montezemolo non è lì perché i tempi sono Berlusconi, i tempi li sa scegliere, ancora oggi è il più bravo di tutti A scegliere i tempi La lista Tremonti quanti voti prenderà secondo lei? Pochi, tanto pochi. Ma che come mai si ha deciso? Come gli è venuto in mente? Giustamente. Ma non lo so, deve aver avuto, non lo so, o manie di grandezza, oppure io penso, qui ho sbagliato, dico ogni tanto che sono come il folpo Hall che ci indovina. Sì. E io ero convinto che Tremonti andasse a fare il capo della Lega, Ma siccome hanno perso i suoi amici, Bossi eccetera, Bossi, Calderoli, probabilmente si è trovato fregato pure là. L'hanno fregato pure là. Perché non è andato Galan in crociera con il giornale, con Sio Sallusti, scusa. Ma non mi ha mica invitato, per dire la verità. Appunto, ma partiva pure da Venezia. Ma non c'è andato, non lo so, partiva da Venezia, sì, ma insomma io... Ormai lei non conta più nulla. Cosa vuoi? Questo è quello. Ma lo dico, lo dico in maniera un po' triste, non conta... Qualche essere. E che ne so, cioè, l'ultima volta che ha sentito Berlusconi quando è stato, scusi Galan? Prima che partisse per questa vacanza. Ma non mi è venuto in mente, non mi è mai passato per la testa ad andare in crociera con lui. Con i lettori del giornale. Va bene, abbraccio, a presto. 20:13, pubblicità. Silvio Palazzo Chigi ogni tanto lo sogno, è stato un periodo bello. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Formigoni questa mattina ad Alessandro Milan paragona Repubblica alla Pravda. Quindi Repubblica, quel giornale che io simpaticamente chiamo la Pravda per il rapporto con la verità, è lo stesso, il rapporto tra Pravda e Verità e Repubblica e Verità è lo stesso. Repubblica pensa che i cittadini l'abbiano dimenticato durante le vacanze di agosto e quindi lo ricicciano per la quarta volta. Giannino contro Berlusconi. Avete sentito che Berlusconi vuole abolire l'IMU, vuole abolire il Fiscal Compact. Ma il Fiscal Compact non lo ha stabilito il suo governo, non è di lì che vengono poi le cose del più tasse, non è stato Tremonti a fare 3 manovre su 4 l'anno prima, interrogatevi cari amici. L'imitazione della Minetti, si parte da Love of My Life, da parte di... dalla mitica Raffaele a quelli che... Stavamo parlando appunto dell'impegno in regione, no? E... Love of my life! Love of my life! Ma chi è? Ciao! Senti, allora stasera ti porto... Ma sei al telefono? Stasera ti porto un'amica che ti piacerà di brutto. Sì, sì, viene vestita, ti lo dico, viene vestita... Come viene vestita te? Anche dove? Nel senso, sei vestita così te? Ora sei vestita così? Sì. Allora va bene, ti porta questa amica, è toppissima, è vestita da cameriera vintage, arriva. Ma come che è? Ma dove? Ancora, anche se viene meglio in video, diciamo la verità, Però la voce, cercate di immaginare una popputa veramente uguale, poi è straordinaria, sentiamo, con i labroni, eccetera. Sì. È meglio se mi faccio regalare 4 appartamenti, così 3 li affitto, un grattacielo. No, sai cosa mi piacerebbe di brutto? Ma di brutto, brutto? No, cosa, Nicole? Una piazza. No, il problema è quello. Allora, secondo me, pensa che è divertente questa roba qui, tipo... Dov'è che ci vediamo questa sera? Nicole Minetti Square, cioè di brutto. Dai. abbia posto delle condizioni per dimetterti. Maligni dicono che tu ti aspetti una giusta contropartita e quindi noi volevamo capire... Cosa stai facendo? Niente, li sto ascoltando. No, baby, io voglio dirti soltanto, sei pazza? Cioè, nel senso, perché... No, veramente... Perché devo dimettermi e perché lasciare soprattutto un percorso politico molto importante per certo. Me, ma soprattutto per l'Italia. E poi, scusami, è come se vincessi al Superenalotto e non andassi a riscuotere uno sprecation, no? Che dici? E pensare che c'è qualcuno del PDL, pochi per fortuna, si contano sulle dita di una mano, tra cui Iole Santelli, ex sottosegretario credo alla giustizia, c'è anche la Mussolini che protestano perché dicono che l'imitazione della Minetti è l'inizio della campagna elettorale, che la satira di solito è contro i potenti e invece la Minetti non è potente, ma di che parliamo? Che vorrebbero bloccare questa roba qui, naturalmente non ci riusciranno perché sono due gatti, quattro gatti. Ma di cosa stiamo parlando? È un'imitazione a quelli che è il calcio di un personaggio che si presta e che ha trovato un interprete degnissimo, bravissimo. Lorenzo da Milano, 800 24 00 24. Lorenzo, dica. Buonasera Cruciani. Vada. Ascolti. Un attimo solo. Sì. Vittorio? Cruciani, Lorenzo, ciao. Dove sei? Non posso dirtelo. Come non posso dirtelo? Ma dove sei? Che è un mistero? Sì. Ma, dove sei alla Gia? Ma tra quanto ti possiamo chiamare? 10 minuti? Sì, il giornale. Il giornale. Si prova. Ma cosa stai facendo? Opero. Opero. Ma cosa fai? Opero. E lascia il telefono acceso un attimo. Ma come operi? Lascia il telefono acceso un secondo, scusami, Vittorio. Nel 2013 ha preso una nave e fanno la crociera della Zurra. Ma dai, tutti convinti. Era Silvio, ma non l'hai sentita la voce? Era Berlusconi. Sì, era Berlusconi, non l'hai sentita la voce, adesso te la rimando fra poco. Ma era così, Berlusconi, però. Era Berlusconi, imbecille, non l'hai sentita. Era Berlusconi, adesso te la rimando. Adesso avete tagliato questa cosa qua, adesso te la tagliamo. Era Berlusconi che stavano parlando della crociera azzurra. Senti. Il giornale. Si prova. Questa crociera guadagnato 200.000 euro. Però. Che non è un 400.000 euro. È una squadra di Milano che non ho. Opera. Sì, il giornale. Si prova. Perché questa crociera ha guadagnato 200.000 euro. Però. Che non è un 400.000 euro. Però. È una squadra di Milano che non ho. Opera. Hai capito o no? Sì, è vero. Bisognerebbe adesso chiamare un perito, magari il professor Gelsomino, che già è stato perito nel caso Cogne, sì. E far isolare la voce di Berlusconi e capire che ha detto qualcosa di importante, di clamoroso, mi pare. No, ha guadagnato 200.000 euro, non mi ricordo che cos'era questa roba qua. Beh, io farei peritare un altro. Sì, io direi di sì. Facciamolo peritare. Sì, lo faremo peritare sicuramente, lo faremo, una cosa importantissima. Guarda, è una delle più grandi inchieste giornalistiche mai fatte questa, mai fatte. Vabbè, comunque, dove eravamo? Con Lorenzo... Ma richiama un attimo Vittorio. Beh, ho capito, richiamo ormai Lorenzo da Milano. No, così si arrabbia. Sì, così si arrabbia. Riproviamo il telefono di sgarbi. Molestiamolo un attimo. Sì, molestiamolo un secondo, dai. Allora, Lorenzo, intanto parli, parli lei, non si preoccupi. La mezz'ora di attesa mi ha calmato le lacrime, ho pianto in quel pezzo in cui ho saputo che il nostro presidente da bambino... ne ha fatte di tutti i colori. Per fortuna non c'è più De Amicis, se no lo dovrebbe riscrivere un'altra volta il libro. Beh, un attimo solo. Dai, Vittorio. Sgarbi con Berlusconi, incredibile comunque. Alle 20:24 peraltro. Sì, alle 20:24. Questa opero. Potrebbe essere qualificata come intercettazione. Ma sì, ma mica non l'abbiamo fatta apposta, è capitato. Cioè, No, è un'intercettazione ambientale peraltro. Una cosa gravissima abbiamo fatto, una cosa gravissima. Una cosa gravissima. rapito la voce di Berlusconi a sua insaputa. Vabbè, allora Lorenzo, tanto non risponde più ormai, dai. Sì. Lorenzo. Allora? Sì, le dicevo appunto che è passato un po' di tempo e ho potuto calmare le lacrime e il pianto commosso per quello che ha fatto Berlusconi da piccolino. Dico che De Amicis, se fosse, si sta rivoltando nella tomba, perché l'avesse avuto il libro lo scriveva solo su di lui, ne ha fatte più di Bertoldo, altro che la piccola vedetta lombarda. Però la chiamavo per un'altra cosa io invece, volevo un suo commento che non ha mai fatto in questo periodo su quel grande Marchionne. Lei ha sempre a casa il busto di Marchionne, giusto? sempre lo lucido continuamente, più lo criticano più lo lucido. Mi tocca la curiosità, per quale motivo continua a lucidarlo? Perché fa quello che deve fa quello che deve fare. Guardi, non voglio tediare gli ascoltatori, ma io le consiglio di leggere un articolo che ho avuto la forza di leggere questa mattina, non si capisce per quale motivo oscuro, di Alessandro Penati sulla prima pagina di Repubblica. Ecco. Perché io difendo Marchionne, non è che lo dico io, per fortuna lo dice uno che si chiama Alessandro Penati, sulla prima pagina di Repubblica, un giornale che certo non è stato, come dire, amico o non è stato vicino a Marchionne. Allora, si legga questo articolo e poi magari ne riparliamo un'altra volta, ma non voglio annoiare gli ascoltatori. Riccardo da Roma. Mamma mia, mamma mia. Sì. Pronto? Sì, mamma mia, sì, mamma mia. Buonasera. Sì, dica. Sì, no, è che praticamente vedo che forse sarà che inizia la campagna elettorale, ma cioè persino lei, vabbè che Radio 24 ormai è tutta spostata a sinistra, perché però cioè sembra la fotocopia dei programmi di La 7. Cioè sembra la fotocopia dei programmi di La 7 solo per radio. Scusi, lei, Riccardo, lei ha l'auricolare, ha viva voce o qualcosa del genere? Lei ha un viva voce, l'auricolare, perché la sentiamo male. Allora, se prende il telefono bene possiamo discutere. Aspetti un attimo che provo a uscire. Non è che provo a uscire, cioè lei ci sono due cose da non fare, il viva voce e l'auricolare, e lei uno dei due sta facendo. No, non sono soffrendo nessuno dei due, sono garantito. Ho capito, allora sei in un posto comunque, dica. Allora c'è un telefono di merda, mi sente bene adesso? Può darsi che abbia un telefono di merda, non è escluso, insomma. Io lo direi con certezza. Va bene, poi certo, non sono come lei che mi posso permettere 50 euro di formaggi o magari un iPhone da 700 euro. E qual è il problema? La ricchezza le dà fastidio? Con i formaggi. Le dà fastidio qualcuno che guadagna? Le dà fastidio chi guadagna? Ma no, però se va a fare le manifestazioni con quelli dell'Ilva, cioè fa ridere, no? Giusto, no? Se li compra lei. E chi ci va con quelli dell'Ilva, scusi? Chi ci va? Andrei subito con quelli dell'Ilva, ma fa ridere lei. Ma l'emissione, a fare radical chic, che fa? Per me ti possono buttare di sotto, glielo ho già detto. Ah, ma lei è Riccardo, il solito Riccardo, lei? Certo, sono io, glielo ho detto stasera mi sto facendo scorare un'altra cosa, no? Che il Radio 24 sembra la 7. Tutta a sinistra, tre battute, una su Formigoni che dice Repubblica, la Pravda, a parte che è verissimo, prima cosa, ma comunque dice vabbè, ma guardi, Repubblica farà sicuramente una campagna contro Formigoni che in alcuni momenti può essere anche esagerata, ma la Pravda era francamente un'altra cosa. Il giornale partito di Le Benedetti, usato per i suoi scopi da decenni, no? Esattamente come la Pravda era usato per gli scopi del Partito Comunista, non c'è una differenza, ma comunque non voglio dire questo, dico, ne hai detta una a destra, dinne una a sinistra, no, dopo c'è Giannino che fa? Attacca il governo Berlusconi ancora, perché dice che si scascompa tutte le stronzate che Giannino è liberista quando... No, ma ha ragione Giannino, come si fa a dire adesso Berlusconi, come fa a dire che vuole togliere l'IMU e che bisogna cancellare il fiscal compact, che io non la voglio mai più pronunciare questa parola, perché allora, la gente non capisce nulla di quello che cos'è il fiscal compact. Lasci perdere Berlusconi, lasci perdere. Ma io quello dicevo, Riccardo. Se ci fosse lei, no? Al posto dell'onorevole professor 20.000 euro al mese Mario Monti, no? Ma se che ci fosse lei, che farebbe? Probabilmente, come tutte le persone di buon senso, siccome entrare nell'euro è una stronzata e siccome nessuno sa cosa accadrebbe se stampassimo moneta, ecco perché nessuno vuole che la... Riccardo, un attimo solo però, un attimo, lei è numero uno in alcuni momenti, mi sta piacendo di meno. Ma stai zitto tu, pubblicità, è torniamo. È bevuto di ideologia, poverino. Lo chiamiamo dopo la borsa, ci sono sorprese perché, diciamola tutta, telefonando a Sgarbi ci è capitato di sentire la voce di Berlusconi, il quale diceva certe cose su soldi, il giornale, eccetera, eccetera. Questo lo dico, questo è accaduto, a tra poco. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Eccoci qui, 800 24 00 24. Eravamo con il grande combattente Riccardo, che ci chiama da Roma. Allora Riccardo, scusa Cruciani, Dimmi. Posso chiedere a questo genio l'uomo di Riccardo Straccia Maroni se mi posso comprare un'ultima bottiglia da 35 euro da portare a una cena, o il signor Riccardo la ritiene una spesa eccessiva? Posso comprare una bottiglia di vino per portarla a una cena o no, Riccardo? Ma guarda tesoro, ma tu puoi comprare le bottiglie di vino anche da 200 euro, non è un problema mio, è soltanto che quando vai lì a difendere quelli che vogliono difendere il posto di lavoro e dicono dateci il lavoro, sei un ridicolo, capisci? Sei un ridicolo. A me dispiace che quell'unico, a me spiace Riccardo, che l'unico neurone che è lì che sbatte da una parte all'altra di quel cervello alla ricerca di compagnia rimarrà deluso perché rimane sempre da solo. Come tutti i radici, che poi quando non hai argomenti che fa insulta, o insulta, è strano che ancora non hai detto, lei non conosce l'uso della lingua italiana, questo cliché, come che ancora non l'hai tirato fuori. Comunque non voglio fare polemica con te, io voglio parlare con Cruciani, ogni volta che chiamo è per parlare con Cruciani, non vorrei fare polemica con te. Chi si assomiglia si piglia, caro Riccardo. Riccardo, cosa vuoi dire? Scusami, lascialo perdere. Allora, volevo dire, no, mi dispiace molto, ecco, vedo soltanto che è sbilanciato molto a sinistra, probabilmente lei avrà ricevuto delle... Ma allora, quale sbilanciato a sinistra? Sì, Riccardo, ti voglio anche bene perché sei un combattente e guarda, dici delle cose ogni tanto... Ma io Formigoni, sul merito delle accuse a Formigoni, io diciamo non condivido... Quando uno parla di Pravda, dai, su, la Pravda, Repubblica, Riccardo, dai. La Repubblica, la Pravda, io lo condivido, esattamente, ma uno lo condivido, va bene. Vabbè, poi, poi, poi... Scusami, no. Poi viene Giannino, che attacca il governo Berlusconi. Anche lui, Giannino, che è un economista di idee liberiste che io condivido, no? Sì. Però non è che va a vedere che Mario Draghi è lì, che ci ha salvato il culo lui, e non Mario Monti. Non è che va a dire che Mario Draghi era stato caldeggiato da Tremonti e Berlusconi. No, quello se lo scorda. No, dice solo, però Berlusconi sul fiscale... Ma stava parlando di un'altra cosa, stava... criticando le frasi di Berlusconi sull'IMU e questo famoso fiscal compact che non voglio più pronunciare. Ma non capisce. Quindi seconda critica a destra. Ma cos'è che gli spieghi? Non capisce. Terza, Laminetti, no? Cioè che uno se va a vedere a sinistra, ma sai quanta roba c'è a peggio della Laminetti? Ma da che punto di vista, scusa? Allora, c'è la, come si chiama, la porno segretaria del PD, quella che ha fatto il film porno, è venuta a saperlo mia madre. Vabbè, ho capito, ma non l'hanno candidata al consiglio regionale, Riccardo, su, dai. Ma come? Era una consigliera provinciale del PD, non era il consiglio regionale, vabbè, perché ancora doveva fare strada, probabilmente perché aveva fatto pochi film, no? Vabbè, poi guarda, scusami. Poi scusa. Che Cruciani, c'è, Parenzo, che vuoi? Solo. Sì. Bisognerebbe dedicare a questo simpaticissimo che ti piace così, radio ascoltatore, la bellissima canzone di Gaber che dice per fortuna che c'è Riccardo, vediamo se l'ottima regia riesce a tirar fuori la canzoncina. Vabbè, per questo. Intanto stai calmo, questo, Corrado da Bari, Riccardo resti lì, Corrado da Bari. Ma resta lì dove? Mandalo a casa. Sì, a lavorare. Buonasera. Sì. Allora, Riccardo. Dica. Sì. No, volevo soltanto fornire un umilissimo contributo alla... a quella, diciamo, a quel discorso che ha fatto lei, sì, precedentemente, un'oretta fa circa. Sì. Volevo soltanto dire che, pur non essendo berlusconiano, sì, lo sottolineo, secondo me potrebbe aver detto, diciamo, la verità, perché io delle cose che lei ha citato, sì, parlando, leggendo un articolo, non so che cosa stava leggendo, sì, io mi sono riconosciuto, perché insomma io oggi ho 46 anni e da ragazzino ho iniziato a lavorare a 14 anni, logicamente d'estate, e ho fatto tutta una serie di cose, tra le quali anche quella di, andando a fare il cameriere a Rimini, di tagliare i cartoni del latte dalla parte superiore perché costavano poco, rubare le bustine di... Ho capito, ma sono passati 20 anni da questi... Bravo. Ricordi, sì, sono, sì, passati, sì, 20 anni. Sì, basta, dubbio, però, facevo dire... gli album completi dei funerali, poi sono stato promosso ai matrimoni. Bravo. Erano anni in cui la carne non si mangiava quasi mai. Andavo a fare la spesa e bucavo la bottiglia del latte della centrale di Milano, bevendone un po', e poi allungavo con acqua per non farmene accorgere. Da bambino andavo nei mercati vicino a casa mia il martedì e il sabato, raccogliendo i fogli di carta gialla che si usavano allora, li portavo a casa, li bagnavo nella vasca, poi li asciugavo e li vendevo per accendere le stufe. Quando andavo a comprare chili di mais e li portavo a casa a piedi, davo a una vecchietta bisognosa i soldi che la mamma mi aveva dato per il tram. Lei si è riconosciuto in queste cose? No, no, dico, magari lui l'ha, diciamo, sicuramente, data la teatralità del personaggio. Sì, ma posso dire una cosa? Chi se ne frega? Sì, senza dubbio. Io volevo soltanto... Io sto fornendo un... Non so a chi possa interessare poi. Volevo soltanto dire che probabilmente non ha detto una bugia. Va bene, intanto abbiamo con noi caro Parenzo, beh, un personaggio che è tornato all'assalto, è tornato all'attacco, perché difende quello che viene dipinto da tutti i giornali come il grande brigante detto Air Batman. È con noi il mitico avvocato Carlo Taormina. Buonasera. Professore, come sta? Bene, bene, benissimo. Beh, insomma, è un caso difficilissimo questo, perché mi pare che ci avete tutti contro, un caso difficilissimo. Sì, ma se uno non ha tutti contro è inutile che riassume i casi, perché non c'è gusto, insomma, no? Sarà condannato, no? Beh, questo non lo so, perché se condannano lui debbono condannare tutta la politica italiana, perché quello che succede alla Regione Lazio succede in tutte le altre regioni. Quello che ha fatto Fiorito, se l'ha fatto, l'hanno fatto tutti gli altri consiglieri regionali, per cui credo che un bel pacchetto Regina Celi non basta, insomma. Ecco. Scusi un attimo, ma non ho capito, lei dice che quello che ha fatto Fiorito l'hanno fatto tutti, in che senso, scusi? Beh, insomma, è logico che l'abbiamo fatto tutti, che tutto si basa su una delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ha stabilito di dare tutti questi milioni di euro a ciascun gruppo politico, e ciascun gruppo politico si è preso questi soldi senza che ci fosse una legge che lo consentiva, e ciascun gruppo politico ha dato tutti i soldi a ciascuno componente del gruppo politico senza che ci fosse una legge che lo consentiva. Ho capito, ma qui ci sono passaggi in conti esteri, ci sono soldi spesi per vacanze. Sì, la cosa grave è che la consegna di questi soldi a ciascuno dei consiglieri, prima a ciascuno dei gruppi e poi ai consiglieri, non prevede la restituzione nel caso di utilizzazione diversa da quella. Cioè, se uno lo utilizza per fare una vacanza non li deve restituire. Esatto. Beh, lei si ricorda il caso della Lega Nord, no? A proposito di e quant'altro. Sì. Beh, non è successo niente, per la semplice ragione che anzitutto... Come non è successo niente? C'è un'inchiesta in corso? Ancora sì, vabbè, ma insomma niente di particolare, non hanno arrestato nessuno. Beh, ho capito, niente. Però c'è un'inchiesta. Beh, Belsito credo che l'abbiano arrestato, magari no, però insomma... Sul piano giudiziario è poca cosa, perché il problema è quello, sia i partiti, sia i gruppi parlamentari, che sono espressione dei partiti, sono soggetti privati, ed essendo soggetti privati, nonostante sia stato contestato Fiorito il peculato, in realtà non è un peculato. Vabbè, quello poi lo vedremo. Secondo lei coi soldi possono fare quello che vogliono, dice lei? Coi soldi... Certo, la Polverini, sento Parenzo che interviene sulla Polverini, perché la Polverini fa parte anche lei di un gruppo consiliare, perché aveva la sua lista, e quindi la sua lista si è trasformata in un gruppo consiliare, e quindi anche lei, come tutti gli altri gruppi, ha preso quello che hanno stabilito che si... Cioè lei dice la Polverini è come il Batman? Sono tutti uguali, sono tutti una razza, sono tutti uguali, problema. Ma scusi un attimo, adesso... La forza con la quale ha difeso le istituzioni oggi la signora Polverini... Ha citato anche il cancro, la Concordia... Non si è dimessa, però, attenzione, la cosa più importante non si è dimessa, e cioè, voglio dire, il gesto clamoroso che avrebbe potuto creare la crisi della regione e quindi determinare una revisione di queste porcherie, non è stato fatto. No, e dunque questo che significa? Che è un po' paragula, dice lei? Ma questo significa che sono tutti quanti interessati agli stessi risultati, agli stessi obiettivi, e quindi alla fine fanno niente. No, scusi un attimo, no, avvocato, io voglio capire una cosa. Al di là delle questioni giudiziarie, lei ci sta dicendo una cosa molto semplice, che in fin dei conti il suo assistito, cioè il signor Fiorito, che peraltro compariva nelle monete mitiche del Principato, del Principato di Fiorentino, e poi spiegheremo questa cosa, il mitico Fiorito, in sostanza è uguale a tutti gli altri consiglieri della Regione Lazio, né più né meno. Né più e né meno, anzi forse meno che più. Cioè, lei dice che tutti gli altri fanno la stessa cosa, utilizzano i soldi per comprarsi le macchine, per andare a puttane e quant'altro. Ma veramente sta dicendo? Ma è una porcilaia, avvocato. Vedrà, certo, è un porcino, certo. Ma avete dei dossier? Avete dei dossier in mano? Abbiamo tutto in mano e daremo tutto all'autorità giudiziaria. Ma cioè, dunque, ma no, tutto, evidentemente il modo in cui venivano gestiti i soldi. Scusa, era il cassiere, in pratica il tesoriere del gruppo del PDL. Dunque, sostanzialmente credo che l'avvocato Tormina abbia in mano delle carte che dimostrano come il gruppo e i singoli consiglieri spendevano i soldi, sì o no? Esatto, esattamente così. Cioè, a puttane, le dice, andavano pure a puttane. Ah, puttane e quant'altro, c'erano tante altre cose, spendevano soldi spesso senza nemmeno avere fatto degli acquisti, e si facevano pagare i soldi senza aver comprato niente, quindi facevano fatturazione per operazioni inesistenti. Cioè fatturazioni false. Certo. Fiorito non ha fatto fatturazioni false. Altri hanno fatto fatturazioni false. Scusi, false. Ma che c'è? Altri del PD o del PDL? PDL. Stiamo parlando del PDL. Sì. Naturalmente, siccome il punto centrale della questione è che c'è stata una delibera centrale del Consiglio regionale, per tutti i gruppi illegittima, anzi illecita, tutti i gruppi hanno preso i soldi illecitamente. Illecitamente, sì, non è vero? Tutti. No, lui sta dicendo che hanno preso i soldi illecitamente, nel senso che poi illecitamente... Non c'era una legge che lo consentiva. Ah, ma quello lei sta dicendo il fatto stesso che quei gruppi abbiano ricevuto dei soldi. Però magari non tutti li hanno gestiti allo stesso modo. Tra andare a puttane e invece spendere i soldi per la politica. Non tutti possono essere gestiti allo stesso modo. Questo è corretto, però tutti hanno preso soldi che sapevano che non potevano prendere. Senta, dalle carte che avete, io voglio capire una cosa: quanti soldi effettivamente, me lo dica sinceramente, sono stati spesi per la politica oppure per gli affari loro, di tutto il gruppo del PD? Ma che vuole che abbiano speso? Non speso proprio niente. 90% per affari loro, dice lei. Sì, certamente. Vabbè, traffico, torniamo tra un secondo per le ultime domande all'avvocato Carlo Taormina, che è tornato in trincea su un caso importantissimo che sta occupando tutte le prime pagine dei giornali, perché lui, principe di Filettino, l'avvocato di quello che viene dipinto come il grande mostro della situazione, cioè dire Fiorito, che era presente nella moneta da 100 Fiorito, non mi ricordo, poi Taormina me lo spiegherà, del principato di Filettino. Una storia incredibile, quasi da fumetto. Traffico. Sono tutti uguali, non c'è problema. Tutti hanno preso soldi che sapevano che non potevano prendere. Allora, devo dire una cosa a proposito della polemica scatenata qui a Radio 24 da questi microfoni da parte di Ugo Sposetti, che ha detto che Il Fatto è un giornale fascista. Non c'era bisogno di prendere le distanze, anche se poi Parenzo le ha anche prese dalle parole di Sposetti. Io invece, come al solito, ho fatto parlare Sposetti per fargli dire quello che pensava, che no, c'è una polemica col Fatto, come è evidente. Lo so, ma non è che ho preso le distanze. No, ma non mi interessa. Il problema è un altro, è che ovviamente, ma non c'è nemmeno bisogno di dirlo, noi non pensiamo che Il Fatto sia un giornale fascista, ecco. Ma questo non c'era nemmeno bisogno di dirlo. E spiace che i signori del fatto parlino di microfoni servizievoli, siccome hanno la fissazione di questa cosa. A questo punto cambio opinione. No, ma io non voglio cambiare opinione, perché non voglio essere querelato dal Fatto, e perché davvero non penso che Il Fatto sia un giornale fascista. Ma quando qualcuno mi parla di microfono servizievole, ma come si permettono? Perché? No, ma si permettono di tutto, perché pensano di essere puri, naturalmente, no? E pensano che tutti gli altri sono degli imbecilli, sono dei servi, eccetera, eccetera. Allora, microfoni servizievoli lo dite a vostra sorella, cari autori di questa nota, non so chi sia, e microfoni servizievoli lo dite a vostra sorella, ai vostri parenti, ai vostri vicini, non a noi, perché noi non siamo né servizievoli né servi, e se voi vedete il mondo come popolato di servi, tranne voi, siete dei poveri pazzi. Sottoscrivo al 101% questa lucida analisi del direttorissimo. Ma non c'è bisogno di sottoscrivere, è talmente evidente che io non considero Il Fatto un giornale fascista. Ovviamente non sono d'accordo con le cose di Sposetti, ma questa qua non è tribuna politica, che bisogna avere il contraddittorio. Ce ne freghiamo del contraddittorio, però non posso sopportare qualcuno che mi dà del microfono servizievole. Vabbè, avvocato, si dimetterà il signor Fiorito? Credo proprio che non si... Da consigliere regionale sicuramente no. Da consigliere regionale è sicuro di no. Sì. al 100%. Beh, a meno si, che è, si è autosospeso dal partito, come, si, come sì. tutti sanno. Verrà espulso? Può, sì. Qualcuno chiede l'espulsione. La Meloni addirittura dice che bisogna prendere a calci negli stinchi. Ma la Meloni c'ha la sorella che lavora nel gruppo da un sacco di tempo. E che c'ha? Lavora, è una precaria. Lavora, è una precaria. Però mia sorella pure è precaria, ma non ci sta. Ma che vuol dire? Lei, che è raccomandata? Anche lei è una sorella precaria. Però scusi, avvocato, la Meloni ha reagito nei confronti di feriti in maniera pazzesca, perché ha detto fai schifo, ha detto fa schifo, infatti faremo una querela nei confronti della Meloni. Sì? Subito. Sì, sì, sì. Scusi un attimo, ovviamente. Però la sorella della Meloni era entrata prima al Consiglio regionale, era entrata già da tempo al Consiglio. Lei dice che è entrata grazie alla sorella. Ma io non lo so se è entrata grazie alla sorella, certamente tanti Meloni non ce ne stanno nel Consiglio regionale, ce n'è uno solo, è la sorella. Ma scusi un attimo. La sorella, la parente, non lo so. Che cos'è che contesta lei delle cose che ha detto la Meloni? Perché non si dice comunque mai a nessuno questa persona mi fa schifo, perché innanzitutto stiamo facendo, a parte il fatto che fanno schifo tutti perché i soldi se li fregano tutti quanti e quindi dovrebbe dirlo a tutti quanti, compresi alcuni del suo partito e via dicendo, però voglio dire, però che c'entra la sorella? Perché Fiorito ha messo in mezzo la sorella della Meloni? Scusi, No, Fiorito ha messo in mezzo le spese del gruppo per i contratti di lavoro a tempo determinato che il gruppo faceva, e tra questi c'era anche quello della sorella. Ho capito, ma la sorella guadagna 1300 euro, dice la Meloni. Sì, ma poverina, la sorella non c'entra niente, ma la Meloni non può dire mi fa schifo, perché non lo può dire a nessuno fino a che effettivamente non ci sia da avere schifo di qualcuno. A parte questo, nemmeno quando c'è da avere schifo di qualcuno si dovrebbe usare questo linguaggio. Ma al di là di questo, era una che poteva star zitta. Però Taormina, nel merito, lei stasera ha detto una cosa importante, cioè dice il signore Batman quei soldi li ha presi, li ha spesi in quel modo ed è legittimo. Cioè, ha sbagliato il nome. Parenzo, non dico che è legittimo, dico che è ancora più grave, che non è punibile. Esatto. Vabbè, questo lo vedremo. E comunque lei dice... ma non è punibile per le solite storie giuridiche o giudiziarie, sì, sì. Ma perché alla fonte c'è questo provvedimento del Consiglio regionale che dà soldi a tutti. Scusi un attimo, lei sta dicendo comunque che Fiorito, se ha sbagliato, lei dice dal punto di vista giuridico, ha sbagliato come tutti gli altri. Beh, su questo non c'è un breve dubbio, nel caso ha sbagliato di meno, non di più. Addirittura di meno. Però ha sbagliato bene. In che senso ha sbagliato bene, scusi? Beh, nel senso che almeno le cose che ha fatturato sono vere, non sono fatturazioni per operazioni inesistenti. Ah, qualcuno ha fatturato addirittura cose inesistenti, sì, una sì, cosa sì, pazzesca. Dove è scritta sta cosa? Beh, avrà le carte in mano. Abbiamo i documenti noi, certo. Abbiamo i documenti, certo. E certo, Davide. Va bene, avvocato, la ringrazio, un abbraccio. Grazie a voi. Avvocato, a presto. Riccardo, allora come concludiamo, Riccardo? No, basta, Riccardo, mangiano tutti, guarda, cioè non c'è problema. Va. Che mangiano tutti? Comunque, è quasi certo, la Regione Lazio è quasi certo. Una parola di pace, Riccardo? Riccardo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Tu e difendi gli amici tuoi comunisti, Di Pietro ha affittato la sede del partito a se stesso, per dirne una, Pendola nella Regione Puglia, ma quanto è indagato. Comunque, per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, incito, devo chiudere, Riccardo, ci sentiamo nei prossimi giorni, a domani, 18:30, alla Zanzara, viva Lotta insieme a voi. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.